non finisce qua. Tornerò, minaccia il povero Cosentino. E ora dove vado? A Scaiola almeno una casa gliel'avete data. Tornerò, com'è possibile, un anno senza te.